prosegue il corso di Torah, Chumash Kolel Torah Roma. Stavamo raccontando la storia della guerra, del conflitto armato tra i quattro re potenti della zona al nord della terra di Canaan, che sono venuti in zona per schiacciare una rivolta, una ribellione delle province più piccole, in particolare cinque re, con altri satelliti intorno, ed è stato in questa storia è stato coinvolto Lot, il nipote di Abraham. Come abbiamo spiegato nella scorsa lezione, questa era una cosa mirata, perché Abraham era una persona importante nella zona, avrebbe potuto pagare una grande somma per riscattare il prigioniero suo nipote Lot. Ma viene vista anche dai nostri commentatori come uno scontro spirituale. Era uno scontro fisico, ma uno scontro contro, dal punto di vista ideologico, contro le idee che Abraham cercava di far diffondere, di divulgare, il credo contro il paganesimo, contro l'idolatria e la fede in HaKadosh Baruch Hu. Quindi nel capitolo 14, al versetto 14, leggiamo, credo che abbiamo già letto la scorsa volta, ma ripetiamo: Vaishma Avram ki nishba achiv. Abraham ricevette una notizia dalla quale evince che il suo fratello, la Torah usa il termine fratello, significa il suo parente, cioè il suo nipote nello specifico, è stato preso prigioniero, e quindi Abraham agisce. Cosa fa? Vayarek et chanichav yelidei veto, shemona asar ushlosh meot, vairdof ad dan. Abraham arma 318 uomini, le sue persone addestrate della sua casa, e inseguì i quattro re fino a Dan. Perché la Torah ci dice il numero esatto dei soldati che erano con Avram? Beh, innanzitutto la Torah forse ci sta indicando quanto debole in realtà era Avram in relazione alle, cioè comparandolo alle altre potenze, in particolare i quattro re contro i quali si stava accingendo per combattere. Era quasi una cosa, un fallimento dalla partenza, 318 persone da una parte, e dall'altra parte i Chachamim fanno presente una cosa interessante che rientra nel mondo del Remes, delle allusioni nella Torah, in quanto il valore numerico. Ogni lettera ebraica ha anche un valore numerico, per esempio la lettera Aleph corrisponde al numero 1, la Bet al numero 2 e così via. Il valore numerico di 318 corrisponde esattamente al valore numerico della parola Eliezer. Eliezer era il servo, diciamo, la mano destra di Avram. E cosa sarebbe qui l'allusione? Secondo alcuni Midrashim, che sono citati anche da Rashi, la Torah sta alludendo che in realtà non c'erano 318 persone, ma c'era solamente una persona, Eliezer, che il suo nome corrisponde al numero 318. E che questo è ancora più fantastico come pensiero. Cioè, cosa sta dicendo la Torah qui? Secondo il Keli Yakar, uno dei commentatori, anche secondo Rashi, che cita questo Midrash, sarebbe d'accordo anche lui che in realtà erano 318 persone. Ma perché? Perché bisogna comportarsi secondo le regole della natura e non appoggiarsi direttamente ai miracoli. Questo i maestri lo insegnano sempre. La domanda è: per quale motivo la Torah ci sta dicendo che sono 318 persone? Per dirci che la guerra era così difficile, la battaglia sarebbe stata una cosa così complicata, fino al punto che non sarebbe stato fisicamente, materialmente possibile sconfiggere l'altra parte, e quindi è necessario, l'unica cosa alla quale si può ricorrere è alla Emunà e appoggiarsi al miracolo di HaKadosh Baruch Hu, cosa che è indicata nel nome Eliezer, perché essendo il numero di persone 318, non che non c'erano 318 persone, c'erano, ma quel numero ci ricorda il nome Eliezer, e qual è il significato del nome Eliezer? L'aiuto del Signore. Ezer, Ezra, è aiuto, assistenza. La prima parte del nome indica il nome di Hashem. Eliezer, il mio Dio, mi è di sostegno, mi è di aiuto. In altre parole, la Torah indica dalla partenza che Avram non si appoggia totalmente al miracolo, cosa che sarebbe vietata, bensì fa tutto ciò che è possibile per lui materialmente e per il resto si affida ad HaKadosh Baruch Hu. Eliezer, Hashem aiuterà. E così troviamo Avram, come sempre, il genio della Emunah, la rocca forte della fede. Avram impiega una strategia particolare per appunto cercare di sconfiggere questi quattro re, e la Torah dice al versetto 15: Vayechalek alehem laila hu vavadav vayakem. In una mezza frase la Torah descrive tutta la strategia e l'esito della battaglia, dicendo che durante la notte lui, Avram, e i suoi servi, quindi questi 318 uomini, si suddivisero, quindi si suddivisero in due accampamenti, in due gruppi, per andare contro per colpirli, li colpirono. E quindi cosa vediamo da questa prima metà del versetto? Che loro impiegarono una strategia di una doppia strategia per ingannare l'altra parte, e cioè prima di tutto non era l'uso all'epoca e anche molto più avanti nella storia combattere di notte, e loro fecero la loro campagna di notte, e anche si divisero in due parti per attaccare l'accampamento dei nemici da due lati diversi, e quindi per creare un inganno, per creare per loro l'idea che c'erano molte più persone di quante c'erano in realtà, usufruendo dalle due direzioni dalle quali venivano e dal fatto che era buio di notte. E quindi in questa situazione la Torah dice alla fine dello stesso versetto: Vairdefem ad chova asher misemol le damasek. Avendo colpito loro, avendo in realtà sconfitto loro, Avraham continuò ad inseguirli fino a Chova, che si trova a sinistra, si intende a nord, di Damasco. Quindi li fece fuggire molto più a nord rispetto alla zona che stavano cercando di proteggere, e in quella situazione Avraham riuscì ad ottenere tutto il bottino che era stato preso dai quattro re, e riuscì a liberare i prigionieri. Cosa che è descritta nel prossimo passuk, il prossimo versetto, che ci dice nel versetto 16: Vayashev et kol ha-rechush, e recuperò, fece tornare indietro tutto il bottino che era stato preso da Sedom, vegam et lot achiv urchusho heshiv, e riprese anche il suo fratello, quindi parente Lot, e i suoi beni, vegam et hanashim ve et ha'am, e anche gli altri prigionieri, quindi tutte le donne e il resto del popolo che erano stati presi in prigionia, sono stati liberati e riscattati da Avraham. Ed ora cosa succede? In questo momento Avraham viene accolto come un generale che ha vinto la campagna militare, che ha sconfitto il nemico, e gli viene dato un grande cavod, un grande onore. Da parte di chi? Soprattutto da parte del re di Sedom. Qui riveleremo quindi nella Torah che il re di Sedom, che era fuggito durante la prima campagna militare, ed era caduto là dove nei pozzi di argilla della zona, come abbiamo visto la scorsa volta, in realtà non era morto, era sopravvissuto in quei pozzi, in qualche maniera, ed ora lo troviamo che accoglie Avram al ritorno della sconfitta del nemico. Vediamo il versetto 17, Pasuk Yudzain, versetto 17, Vayetze Melech Sedom Likrato. E il re di Sodom andò, uscì in, per andare incontro ad Avraham, Acharei Shuvo Meakotet Kedor La Omer, dopo che questo tornò dall'aver colpito, dall'aver sconfitto Kedor La Omer, il più importante dei quattro re, Veta Melachim Asher Ito, e gli altri re che erano con lui, dove venne ad accoglierlo, luogo che abbiamo già menzionato in precedenza, il Emek Shave, la zona che si chiama la valle di Shave, e cioè Emek Hammelech, la zona che si chiama la valle del re. Shavè significa letteralmente un luogo piano, una pianura, un luogo in cui non ci sono ostacoli, un luogo che, dicono i commentatori, veniva usato quale uno stadio, un luogo dove avvenivano delle gare, essendo un piano dove non c'erano ostacoli. E lì era appunto la valle del, quello che la Torah chiama anche la valle del re. Lì venne incontro il re di Sodom ad Avram. Allora, di nuovo, vediamo che il re di Sodom si era salvato, era sopravvissuto al discorso precedente, e potrebbe anche darsi, se noi leggiamo il commentatore Ramban e Nachmanide, potrebbe anche darsi che era stato proprio Avram, durante la campagna, mentre si spostava verso nord, che... oppure quando è venuto nella direzione di Sedom per iniziare la campagna militare. È lui che ha fatto, che ha aiutato il re di Sedom a sopravvivere, che gli ha salvato la vita, che l'ha tirato fuori dai pozzi nei quali erano caduti. E quindi qui viene menzionato solo il re di Sedom e non il re di Amorà, che anche lui era caduto nel pozzo. Forse lui non è sopravvissuto, non viene menzionato. E qui dove si incontrano? Si incontrano appunto in questo luogo in cui gli importanti, i re, i principi facevano le gare, quindi la pianura, la valle del re. Ma che cosa si nasconde in questa descrizione? Perché la Torah ci deve dare il punto geografico esatto nel quale si incontra, nel quale il re di Sodom va incontro ad Avram? Emek Shavè, se guardiamo il commento di Rashi dice, citando il Midrash, la parola Shavè, che si intende qui dire un luogo piatto, piano, Shavè vuol dire anche uguale, ovviamente si capisce perché questo si chiama un luogo piano, ma cosa si intende per uguaglianza? Tutti i re, tutti gli idolatri, in maniera uguale, hanno lodato ed hanno ringraziato Avram. E gli hanno detto, tu sei per noi il nuovo capo, tu sei per noi il nuovo leader, tu sei per noi tutto. C'è scritto nel Midrash che hanno creato un palco, sul quale hanno messo Avram e hanno detto come se lui fosse la divinità quasi. Questo erano abituati a fare. E Avram chiaramente ha usufruito di questa opportunità per insegnare loro che non andava fatto questo, che neanche andava ringraziato. In realtà Avram, come vedremo, non accettò neanche totalmente tutto ciò che loro volevano offrirgli. Non accettò sicuramente di essere in qualche maniera divinizzato. Quindi tutto questo rientra anche nel progetto generale dell'opera di Avram. Chi altro c'era in questa occasione? La Torah racconta nel versetto successivo, Yudchet 18, un Malchizedek, un uomo che si chiama Malchizedek, che viene descritto come Melech Shalem, il re di Shalem. Ozi lechem vayain, offrì ad Avraham del pane e del vino. Vehu kohen l'Elyon, egli, Malchizedek, era un sacerdote per il Signore Eccelso. Proseguiamo e poi spieghiamo. Vayevarecheu vayomar, egli, il re Malchizedek, lo benedì ad Avram. Egli disse, e disse, Baruch Avram l'Elyon konesh amayim v'aretz. Sia benedetto Avram dal Signore Eccelso, padrone del cielo e della terra. E prosegue, Uvaruch el'Elyon asher migen tzarecha biyadecha, Vaitenlo maaser mikol. E sia benedetto il Signore Eccelso che ha consegnato i tuoi nemici nelle tue mani. E Avram diede a questo re, a questo quindi sacerdote, Avram gli diede la decima parte di tutto ciò che possedeva. Qui il primo esempio della mitzvah del maaser, di devolvere una decima parte dei propri guadagni o dei propri possedimenti in beneficenza. Questo fece Abraham con ciò che aveva e diede una parte, una decima parte al Malchizedek. Ora, chi era questo Malchizedek? Non abbiamo sentito il suo nome finora. Allora, la prima cosa, l'allusione nel nome della sua città, Shalem. Cosa ci ricorda la parola Shalem? In realtà è la seconda parte del nome Yerushalayim. Nelle fonti Yerushalayim è scritto Yerushalem, senza la Yod verso la fine della parola, prima della Mem finale. In quanto Yerushalem, come viene chiamata nel Tanakh, anche se si legge Yerushalayim, secondo le fonti, questo era lo stesso luogo che poi diventa Yerushalayim. E chi era questo re? Secondo i Chachamim era, lo conosciamo già ma con un altro nome, lo conosciamo con il nome Shem. Shem, il figlio di Noach, Noè. Anche se Shem viveva tra popoli idolatri, lui riteneva la tradizione ricevuta da Noach e in precedenza fino ad arrivare ad Adam Arishon della fede in Akadosh Baruch Hu, della fede nell'unico creatore, e lui mantiene questo credo. E ringrazia Akadosh Baruch Hu quando incontra Avram, anche per la sconfitta che Avram ebbe contro i nemici, e Avram appunto gli dà quel dono, quella decima parte del bottino che aveva ricavato tramite questa campagna militare, e vedremo poi cosa ne farà Avram dell'altra parte del 90% rimasto. E se noi parliamo delle storie degli avi, come diventano un'indicazione stradale, se vogliamo, per ciò che accadrà con i figli, qui l'esempio è proprio lampante, cioè il precedente. Si viene a Yerushalayim e si dà una parte dei propri beni ai Kohanim, proprio come faranno gli ebrei più avanti nella storia, quando sarà costruito il Beit HaMikdash, quando porteranno i loro doni, che la Torah prevede siano appunto destinati ai Kohanim, ai sacerdoti del Beit HaMikdash. Quindi il simbolismo qui è molto forte. Vediamo che Malchizedek, questo re che abbiamo identificato con Shem, viene a offrire quelle due cose simboliche, vino e pane, cosa che il re di Sedom non fece. E, anzi, vedremo cosa è la prima cosa che il re di Sedom dice ad Avraham. Subito nel successivo versetto 21. Vayomer melech Sedom el Avram. Disse il re di Sedom ad Avram. Ten li hanefesh ve'arechush kachlach. E cioè, dammi le anime, dammi le persone, ovvero per le regole della guerra, Avram ora è, diciamo, il padrone, tra virgolette, di questi prigionieri. E il re di Sedon dice: dammi le persone, cioè i prigionieri che erano stati presi da Sedom, veharechush kachlach, e tu prendi il bottino, tienilo per te. Cioè, sono pronto a capire se vuoi tenere il bottino, quello te lo puoi tenere, ma almeno le persone ridammele. Quindi lui subito parla, tenli, dammi. Lui è subito egoista, il re di Sedom. Il Midrash dice che il Melech Sedom, nonostante il re di Sedom, nonostante la sua umiliazione, nonostante il fatto che era quasi, cioè aveva quasi lasciato la vita lì in quella campagna militare, eccetera, comunque non perde il suo egoismo e viene a dire, a iniziare a fare come un negoziare con Avram, dicendogli: io ti lascio tenere il bottino, tu mi dai i prigionieri. E Avram gli risponde: non funziona così con me. Vediamo il versetto 22. Vayomer Avram el Melech Sedom, disse Avram al re di Sedom: harimoti yadi el Hashem kel elyon kone shamayim varetz. E cioè, alzo la mia mano in giuramento, significa, è un modo di dire che fa un giuramento, alzo la mia mano davanti all'Eterno, il Signore Eccelso, creatore del cielo e della terra, padrone del cielo e della terra. E cosa è il contenuto del giuramento? Vediamo il versetto 23. Im michut ve'ad seroch na'al vimekach mikol asher lach, che del bottino non tratterò né un filo, né un laccio di una scarpa, di un sandalo, un legaccio. Non prenderò nulla di tutto ciò che ti appartiene come compenso. Ve lo tomar anihe esharti et Avram, perché tu non potessi dire, tu non possa dire: io, re di Sedom, ho reso ricco Avram. Perché? Perché io, Avram, confido in Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu mi ha detto che lui mi renderà ricco, non sicuramente attraverso l'appropriarmi di beni altrui, anche se per le regole del gioco, per così dire, in maniera legittima, non sarai tu, re di Sedom, che dirà: io o per mia causa Avram si è arricchito, sulla mia disgrazia si è arricchito Avram. Non ho bisogno dei tuoi favori, tieniti tutto. E quindi conclude dicendo: Bil Adai, non tener conto di me, Rak Asher Achelua Nearim, solamente ripaga ciò che hanno mangiato i giovani, cioè i soldati di Avram, Vechelek Anashim Asher Alchu Iti, e la parte degli uomini che sono venuti con me, cioè le persone importanti che si sono unite ad Avram nella sua campagna, come abbiamo visto che lui aveva degli alleati la scorsa lezione, Aner, Eshkol e Mamre, la parte che loro vorranno, Hem Yikuchelkam, loro, essi prenderanno la loro parte. Quindi paga le spese di quanto hanno dovuto spendere i ragazzi, ma non prendo nessun bottino. Avram quindi dice: la parte che spetta alle spese, la parte che spetta agli alleati, che le fonti dicono non hanno partecipato fisicamente alla campagna, ma sono rimasti nella linea dietro per salvaguardare tutto ciò che erano gli oggetti, tutto quello che era il materiale che si sono portati con sé, e quindi sono considerati anche loro una parte della campagna militare più vasta, una parte dell'esercito, diciamo così, e Questo anche in futuro, in altre campagne militari dei figli di Avram, degli ebrei, coloro che rimangono dietro a che lezioni possiamo trarre da questo racconto che la Torah ci racconta tutto il discorso di questa campagna militare? C'è un'opera in cui, un'opera che si chiama Melamed HaTalmidim, dell'inizio del XIII secolo, dove elenca una serie di lezioni molto interessanti da questo racconto, cioè quali sono le lezioni specifiche nella nostra crescita caratteriale che la Torah vuole trasmettere attraverso questo racconto. La prima cosa, Midat Rachamim significa un comportamento di misericordia, sentimento di misericordia, cioè la reazione di Avram nel momento in cui viene a sapere del disagio nel grave disagio nel quale si trova il suo parente, il suo nipote Lot, nonostante non fosse proprio una persona così degna per altre motivazioni, come abbiamo visto nella scorsa lezione, ma Avram prova un sentimento di misericordia nei suoi confronti, e la seconda cosa qui elencata sarà Midata Gevurah, cioè l'aspetto caratteriale del rigore, della disciplina, dell'autodisciplina, che Avram non solo si sente, diciamo così, ha un sentimento di misericordia nei confronti del suo parente, ma è pronto anche a mettersi in ballo e andare anche incontro al pericolo in una maniera sproporzionata rispetto a quelle che erano le forze disposte sul campo. E quindi poi la terza cosa è il tratto caratteriale della histapkut, cioè l'accontentarsi dei beni materiali che si hanno già, e non avere quella sete che in realtà non è mai, è impossibile dissetarla quando c'è questa sete, cioè quella di voler sempre avere di più. Infatti Avram dice: non voglio neanche un laccio di una scarpa da quel bottino che teoricamente sarebbe stato il suo per legge. Legge internazionale, legge di guerra, legge anche di qualsiasi situazione in cui una persona viene in possesso di qualcosa, di un bene per il quale il proprietario originale ormai ha rinunciato al possesso. Quindi è come se si acquistasse qualcosa non da un'altra proprietà, ma dal nulla, una cosa che non ha proprietario. In questo caso Avram dice: no, non mi interessa. Ho quello che mi serve, avrò quello che mi servirà, non sarai tu a dire mi hai arricchito. La quarta cosa, il comportamento di fiducia, di vicinanza, di fratellanza con i propri alleati, cioè il fatto di acquisire la fiducia delle persone che sono anche pronte loro, come sei pronto tu, a mettersi in ballo per il loro bene. E viceversa. E quindi la Torah fa riferimento per questo, per insegnarci questa lezione, per questo la Torah fa riferimento ai Baalei Berit Avram, cioè agli alleati di Avram, come abbiamo visto. E la quinta cosa è il ringraziamento, il riconoscimento, la riconoscenza nei confronti di HaKadosh Baruch Hu, che si esprime nel suo dono di quel 10% al re di Shalem, Malchizedek. E allora, ricapitolando la storia, i re del nord hanno cercato di schiacciare la rivolta dei cinque re locali di Sedome, Amorà e vari satelliti, e E hanno cercato di schiacciare anche Avram, prendendo il suo nipote Lot in prigionia. Come prigioniero? La Torah spiega la grandezza e la forza di questi cinque re, e quanto sarebbe stato difficile andargli contro. E nonostante ciò, Avram ha deciso di intraprendere quella campagna e strada facendo ci ha insegnato molte lezioni di comportamento che possono essere valide non solamente in una campagna militare, ma anche nella campagna, diciamo, la campagna quotidiana, che è quella di sconfiggere il nostro Yetzer Hara.